Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon. Oggi, ahimè, parliamo di guerra, perché questo termine è sempre più presente alle nostre parole quotidiane e anche quando si pensa ad altro ci si finisce per inciampare, tra virgolette, nella guerra. È successo al Museo UO di Milano, il Museo dei Fumetti, che aveva in calendario la presentazione della graphic novel Sindrome Italia, storia delle nostre badanti. Le badanti è un identikit che fa questo lavoro di Tiziana Francesca Caro e di Elena Mistrello, che tramite le testimonianze dirette delle badanti va a guardare il loro identikit, chi sono poi prima di essere badanti, cosa hanno lasciato a casa nei loro paesi lontani, cosa immaginano per il futuro. Sono donne che abbandonano la propria famiglia per occuparsi della famiglia di qualcun altro. In Italia sono quasi 2 milioni le donne che si occupano dei nostri cari nell'assistenza. E naturalmente tra le badanti tante sono le donne ucraine. E quindi chi è costretto ad emigrare per fare qualche soldo, magari per tornare poi a casa, la casa se la vede distrutta. Quindi questo appuntamento dedicato a questa presentazione di questa graphic novel si è tradotto anche inevitabilmente in una riflessione sul dramma delle donne che vivono la guerra lontane dalla loro famiglia. E su questo proprio Morena Moretti ha interpellato Luigi Bona, direttore del Museo UO di Milano. Queste donne che vengono da noi lasciano la casa, lasciano la famiglia, lasciano i figli e vengono in Italia per un numero indefinito di anni, 10 anni, ok? Quando rientrano, praticamente magari riescono a rientrare nelle loro case, dei problemi psicologici enormi, hanno dei sensi di colpa perché lasciano i figli, lasciano la famiglia, lasciano il marito, eccetera, per venire a lavorare qui e poi quando rientrano là in realtà sono ancora ancora in Italia, quindi devono ritornare poi in Italia. Cioè questo tipo di problemi psicologici enormi non vengono mai considerati. La vita di queste donne non viene considerata e per fortuna questo libro pubblicato da Becco Giallo, ma scritto da Tiziana Francesca Vaccaro, che è molto su questo pezzo, fa anche spettacoli teatrali portando in giro questo tipo di problematica, mette veramente il dito sulla piaga, ma in modo tranquillo, rivela che ci sono questi problemi. Le donne, soprattutto della Romania, si sono attivate su questo, sono organizzate da tempo per aiutarsi tra di loro, in solidarietà, e non sono contrapposte a un discorso italiano, che so io assolutamente, sono grate all'Italia comunque che dà loro delle opportunità di lavoro, eccetera. Ma questo non impedisce che ci siano dei grossi problemi e che noi questi problemi non li stiamo considerando assolutamente. Molte di queste donne, che sono donne ucraine, stanno vivendo un dramma ancora più di quello che viviamo noi, sì. Che naturalmente la guerra coinvolge tutto, è la fine del dialogo e la umanità. Per loro però che hanno familiari in Ucraina la situazione è ancora più drammatica. Tragica, certo. È tragica. Sì, sì. Nel vostro incontro di domenica avete anche accennato a questa nuova situazione, visto? Certamente sì, la cosa che è evidente è che noi possiamo anche immaginare il mondo parcellizzato in confini, nazioni, ma in realtà soprattutto paesi appunto come la Romania in questo caso, focalizzato di più ieri, ma anche l'Ucraina, infatti è stato assolutamente detto questo, anche le donne ucraine hanno lo stesso problema e oggi in più hanno anche il problema della guerra. Quindi tra l'altro personalmente ho sentito anche delle persone, perché anch'io ho avuto questi problemi con mio padre, che è stato assistito da donne somale, da donne ucraine, eccetera, e questi si preoccupavano non tanto della casa che si erano faticosamente costruite perché volevano poi ritornare in Ucraina e rimettere insieme in qualche modo le fila della loro vita in Ucraina, e poi si sono trovate che adesso la casa che si erano costruite potrebbe essere distrutta da un momento all'altro, tutto potrebbe andare in nulla, ma la loro preoccupazione, cioè, non ha importanza, la casa si può ricostruire. Il loro problema grosso era la famiglia, erano i parenti, gli amici, tutte le persone che sono là, e loro da qui seguono questi problemi e cercano di capire che cosa succede e che cosa succederà a queste persone. È una tragedia pazzesca, che dove veramente il concetto di controllo territoriale, concetti più che superati ormai dalla realtà del mondo, non sembravano neanche lontanamente concepibili. Quindi sono sconvolte da una situazione che già non devono fronteggiare da sole, soprattutto. Non si sentono solo, per fortuna, sentono che l'Italia è con loro, che noi siamo con loro. Solidarietà internazionale, per fortuna, si sta manifestando in mille modi. Questo. E anche ieri, appunto, le donne della Romania e donne italiane che erano presenti hanno manifestato questa solidarietà assolutamente per questi paesi, dove oggi è l'Ucraina a essere colpita, potrebbe essere chiunque in qualsiasi momento, insomma, quindi siamo noi che siamo colpiti, tutti siamo colpiti da questa cosa, l'umanità che è colpita da una situazione tragica di questo genere, e le vite individuali non sono altro che lo specchio, la testimonianza di una tragedia che pensavamo non più immaginabile in territorio europeo, ecco. Noi ci siamo trovati per caso a dove gestire questo incontro, che era già previsto perché il tema comunque era importante, la concomitanza con la guerra e le nuove tematiche che si stanno manifestando, la vedo ancora più attuale, ancora più forte, e beh, questo forse ci aiuta anche a ricordarci di non sederci sempre sugli allori, essere tranquilli nel nostro mondo dicendo vabbè, le guerre sono una cosa lontana, le guardiamo in televisione, no, cioè queste tragedie sono per tutti noi, perché noi siamo comunque colpiti direttamente come esseri umani da queste cose. Imagine all the people. Share. Fin qui il dramma contemporaneo dell'Ucraina e delle donne che lavorano lontano dalle famiglie in grave pericolo. Ma tornando invece più specificatamente al fumetto, in qualche modo questo sempre seguite le questioni dei paesi, quindi le questioni della guerra. Ripercorriamo questo percorso con la storia del Corriere dei Piccoli, che di fatto è il più importante, il primo giornale fumette comparso nel nostro paese. Su questa funzione fiancheggiatrice delle azioni belliche del giornalino ne parla Roberto Bianchi, storico dell'Università Fiorentina. Dopodiché andremo a seguire passo passo le varie vicende del Corriere, appunto accostandole alle vicende del Regno Italico fino alla liberazione della Resistenza. Il fumetto ha una lunga storia. La Prima Guerra Mondiale rappresentò un momento di svolta da un punto di vista della produzione e della diffusione di questa arte, che alcuni studiosi definiscono non arte. L'Italia in guerra era un paese mobilitato con molti conflitti al suo interno, non c'era consenso rispetto alla necessità di intervenire in guerra da parte di una fetta consistente, forse maggioritaria della popolazione, e anche per questo durante la guerra e soprattutto dopo la disfatta di Caporetto i fumetti rappresentarono uno strumento di comunicazione. Dall'autunno 1917, nell'ultimo anno di guerra, i fumetti furono molto usati anche nelle trincee e comparvero sui giornali di trincea come La Tradotta o altri, per spiegare la guerra a quei bambini soldato, quei giovani adulti, quegli uomini spesso analfabeti e spesso a loro volta appunto non necessariamente coinvolti in una propaganda di guerra che soprattutto all'inizio tendeva a rivolgersi alle élite del paese. Oggi, ora adesso abbiamo assistito a un ritorno, secondo me, di attenzione da parte di fumettisti, di autori e autrici di fumetti al tema della prima guerra mondiale, che viene narrata spesso in modo molto diverso rispetto a quella di cento anni fa. ...1914-1918... A Sarajevo viene assassinato l'arciduca ereditario d'Austria, Francesco Ferdinando. L'Austria e la Germania dichiarano guerra alla Serbia, alla Francia e alla Russia. Parla Altero ai suoi soldati, Franz Josef l'imperatore. Gli italiani ci han sfidati, pagheranno il loro errore. A Caporetto le truppe austriache sfondano il fronte. Gli italiani ripiegano, lasciando sul terreno 400.000 uomini. Tofolino se n'è accorto, chiede fievole che c'è. La medaglia qui ti porto per comando del mio re. Ora l'anima innocente si prepara a volar via. Tofolino dolcemente par che dica, Italia mia. Interventista e guerrafondaio, come ogni giornale della ricca borghesia, il Corriere dei Piccoli si trova in prima linea negli anni della Grande Guerra. Incominciano a formarsi i ranghi dei disegnatori italiani, Gustavino, Antonio Rubino, Attilio. Ma è solo nel 1917 che nasce il grande eroe italiano del Corrierino, il signor Bonaventura, di Sergio Tofano. Fare i giornali è una missione, richiede molta concentrazione. Vendendo concime, vendendo petrolio, compriamo corrieri, compriamo ogni foglio. Fra noi non ci sono soltanto porcelli, ma anche mansueti, caprotti ed agnelli, che brucano e belano in redazione. Sono gli ovini dell'informazione. Sun comprame in giornali, per il me capitali, piai tandemu cristiani, vai e fedire turi. Scioperi e rivendicazioni operaie. Il cavalier Benito Mussolini organizza la marcia su Roma. Viene assassinato Giacomo Matteotti. Patti Lateranensi e guerra d'Etiopia. Corretta che si schiava fra gli schiavi, vedrai come in un sogno tante navi, e un tricolore sventolar per te. In Spagna, i volontari italiani e tedeschi aiutano Franco a vincere la guerra civile. Arriva Spagna! Urlavano le balde truppe avanzando e fulminando i miliziani. E da quel grido di vittoria e di redenzione, un altro grido si framischiava superando il frastuono del combattimento. Duce! Duce! Travolti dai nazionali, i miliziani avevano deposto le armi. In Villa Hermosa, redenta e salvata, il generalissimo disse al piccolo eroe: «Bravo, tu hai ben meritato. La patria non lo dimenticherà». Per 20 anni, il Corriere dei Piccoli caccia la testa sotto la sabbia. Dall'America giunge il surreale e poetico Felix the Cat di Sullivan, con una nuova versione dei vecchi Bibi e Bibò, passati da Dirks a Kner per beghe di diritti d'autore. Ma gli italiani continuano a tenere banco con il Sorpampuglio di Bisi, il Pier Lambicchi di Manca, il Marmittone di Angoletta. Poi, per cantare i fasti della guerra di Spagna, compare per la prima volta la vignetta con testo in prosa. Il fumetto è ancora lontano, ma l'egemonia della strofetta comincia a vacillare. Battaglioni del Duce, battaglioni della morte creati per la vita a primavera sacra partita. 1939-1945. Ora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Don Gradasso Sbudelloni, dagli storici balconi, al sultan di Gibilterra dichiarato a orrore la guerra. Nella tempesta bellica, il corrierino naviga con tutta l'abilità e la disinvoltura della classe dirigente alla quale appartiene. L'autarchia elimina anche gli ultimi eroi americani e apre la strada a una pletora di personaggi caserecci dalla vita molto breve. Mussolini viene fucilato e le truppe alleate occupano anche il nord Italia. La vittoria! A squarciagola grida Mimmo. E chi va a scuola? Ed applaude a piene mani quegli eroici partigiani. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, perché mi sento... Dopo essersi prudentemente travestito, il giornalino affida le sue copertine a un nuovo personaggio di Manca, così trasparente e così tempestivo da non sfuggire del tutto al cattivo gusto. Don Gradasso Sbudelloni, delle spighe fra i covoni, ritto sulla Trebbiatrice, do l'esempio al popol, dice. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Nella Seconda Guerra Mondiale i fumetti americani mettono in gioco nel grande conflitto i supereroi con i loro costumi, con i loro superpoteri, tutti contro il nazismo dalla parte del mondo libero. Una carrellata di protagonisti con le ultra capacità di combattimento che vengono in qualche modo messe in rassegna da questa scheda scovata da un blogger di internet. Molti dei supereroi che amiamo hanno giocato un ruolo importante durante la Seconda Guerra Mondiale, sia nelle loro storie che nel mondo reale. Andiamo quindi a conoscere alcuni di questi eroi. Jay Garrick è considerato il primo Flash, le sue avventure iniziano infatti in Flash Comics nel 1941. È però in Justice Society of America 45 dove vediamo un interessante flashback. Qui Flash con l'amico Alan Scott prende parte a delle missioni segrete in territorio nemico e vediamo i nostri eroi con uniformi militari prendere a calci qualche nazista. Ed è quello che faranno più o meno tutti qui. La torcia umana non sempre è stato il Johnny che tutti conosciamo. Nel 1939, infatti, il personaggio era un androide. Presentato come un mostro, questo robot si trasformerà poi nell'eroe che oggi conosciamo. Qui, insieme a Namor e a Capitan America, il nostro androide combatterà le forze dell'asse fino alla sua scomparsa nel 1950, per poi essere ripresentato al mondo come Johnny Storm dei Fantastici 4. Shazam, introdotto nel 1940, ha avuto un fortissimo impatto sulla cultura del fumetto, riuscendo per un primo periodo a vendere più di Superman. Come altri personaggi in quegli anni, anche lui si è ritrovato a combattere contro i nazisti. I suoi fumetti ovviamente facevano parte di una grande campagna di propaganda, tramite infatti titoli come Swatch the Jobs e illustrazioni come queste, si mostrava ai giovani e alle famiglie come tutti avessero un ruolo da giocare durante la guerra. Wonder Woman è l'amazzone che, come nel film, guida Steve Trevor nel suo ritorno al mondo degli uomini. La nostra eroina aiuterà gli Stati Uniti nel secondo conflitto mondiale. Le avventure di Wonder Woman durante la Seconda Guerra Mondiale sono molte, ma soltanto poche di esse sono state pubblicate negli anni della guerra. Però il solo essere una presenza femminile in battaglia mostrava un lato della donna che ai tempi non veniva accettato facilmente. Durante la Seconda Guerra Mondiale la DC era sempre in prima linea nello sforzo bellico, sociale ed industriale. E ovviamente personaggi come Batman venivano introdotti in storie di guerra piene di simbolismi e atti eroici. La parte interessante però non erano tanto le battaglie, ma le azioni che Batman intraprendeva da casa. Donando carta, vendendo titoli di guerra, francobolli e creando giardini della vittoria. Un giardino della vittoria è semplicemente la coltivazione di un orto nelle proprietà private o nei parchi pubblici che permetteva al cittadino di supportare lo Stato nella distribuzione del cibo. Mettendo quindi supereroi protagonisti di queste storie, si diceva ai ragazzi e alle famiglie che tutti possono essere degli eroi e anche una piccola azione poteva aiutare. Tutto questo faceva ovviamente parte di una propaganda che mirava a mantenere alto il morale della popolazione. Capitan America è forse il personaggio più adatto alla lista, in quanto la copertina del suo primo fumetto lo ritrae intento a prendere a pugni il malvagio Adolf. Come per Wonder Woman, anche Steve ha moltissime avventure di guerra. Ma al contrario di altri personaggi patriottici, il nostro Capitan America è uno di quei pochi ad aver mantenuto successo nelle vendite anche dopo la fine del conflitto. Tra gli eroi patriottici caduti nel dimenticatoio troviamo Bulletman. Il caro Bulletman combatteva spesso fianco a Capitan Marvel. Il suo casco a forma di proiettile, tramite una modifica del campo gravitazionale, gli permetteva di volare e deviare i proiettili. La storia più interessante del personaggio la vediamo quando combatte l'eroe nazista Capitan Nazi. Per il resto potete dimenticarlo. Durante la Seconda Guerra Mondiale mari ed oceani venivano rastrellati da navi e sottomarini militari. Tutto questo via vai di umani e armi finisce con l'infastidire il caro Namor, che decide così di unirsi agli Stati Uniti e ai supereroi nella guerra contro le forze dell'asse. Come Batman, anche il nostro Superman ha avuto un ruolo centrale nella propaganda di guerra. Infatti, nei panni di Clark Kent, decide di fallire il test dell'esercito, così da poter prendere parte alla guerra nei panni di Superman. I fumetti dell'eroe venivano basati su storie di guerra in cui Superman supportava l'esercito degli Stati Uniti, ma man mano che la guerra andava avanti, le storie dell'eroe si avvicinavano sempre di più agli eventi reali, tanto che alcuni fumetti venivano ritirati con l'accusa di essere una minaccia per la sicurezza nazionale. Superman però non faceva solo la parte del combattente, veniva spesso usato per messaggi secondari, come la promozione dello studio e della letteratura tra i soldati semplici, in modo da promuovere un futuro lavorativo per i giovani arruolati. Il numero 33 di Superman, e come altri 23 numeri, è stato pubblicato dal Dipartimento di Guerra per il personale militare. Infine abbiamo Wolverine. Il personaggio di Wolverine è uno di quei supereroi con un forte legame con la guerra. Infatti il nostro Logan ha combattuto in entrambe le guerre mondiali, in Germania a fianco a Capitan America, in Africa e ovviamente in Giappone, dove ha visto in prima persona l'attacco ad Hiroshima. Wolverine però fa la sua prima apparizione nel 1974, quindi il personaggio non ha avuto assolutamente nessuna influenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.